Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 14 febbraio 2015. Il cellulare riconosce la presa del padrone grazie ad un brevetto italiano. Basta impugnare il telefonino nella tasca, estrarlo e premere un tasto qualsiasi. E senza bisogno di rimettere il PIN, questo si sblocca e si attiva. Un bel passo in avanti in termini di sicurezza e di praticità, visto che finora la tutela dei dati personali ha fatto a pugni con la comodità d'uso. Ad offrire questa soluzione sono oramai diversi grandi produttori di smartphone che hanno acquistato i diritti di utilizzo di un brevetto tutto italiano. Ad ideare il meccanismo di sblocco con riconoscimento fisico sono stati infatti due ricercatori italiani, Mauro Conti dell'Università di Padova e Bruno Crispo dell'Università di Trento. Fin qui la notizia del 14 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Mauro Conti spiega perché la soluzione da lui ideata in questi mesi con il collega Crispo ha, prima di tutto, l'obiettivo di aumentare la sicurezza. Gli attuali meccanismi di sblocco sono sia scomodi sia insicuri. Se pensiamo ad esempio alle password grafiche o alle password dei PIN più classici che conosciamo, è stato provato da diversi studi che gli utenti tendono a scegliere delle password banali perché poi ovviamente se le devono ricordare, e quindi scegliendo delle password banali diminuiscono il livello di sicurezza. Basta una videocamera di sorveglianza per capire qual è il PIN che sta emettendo l'utente, o ancora è stato dimostrato che semplicemente analizzando le impronte che si lasciano sul touchscreen del nostro telefono, anche in quella maniera è possibile ricostruire la password. Il vantaggio della nostra soluzione è che può essere integrata in maniera completamente trasparente in un gesto che potremmo definire naturale nell'utilizzo del telefono. L'utente semplicemente compie un'operazione che è assolutamente naturale, che è quella appunto di portare il telefono di fronte a noi, vedere che ci sta chiamando e poi, una volta premuto un bottone, portare il telefono all'orecchio. Durante questo movimento i sensori che sono all'interno del telefono, che sono in particolare il sensore di accelerazione e il sensore di orientamento, effettuano delle misurazioni. Sulla base di queste misurazioni si stabilisce se l'utente che sta effettuando l'operazione è quello autorizzato a rispondere oppure no. Non abbiamo bisogno di pensare dei nuovi telefoni, sostanzialmente tutti gli smartphone attualmente sul mercato hanno già questi dispositivi. Se ci pensiamo, sono i sensori che permettono di cambiare l'orientamento delle applicazioni da orizzontale o verticale, dipendentemente da come visualizziamo o spostiamo il monitor del nostro telefono. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.